Allora, buonasera a tutti e a tutte. Siamo qui per una nuova puntata di Entropia Massima con Alberto Castagnola. Parleremo di ambiente e con verso la fine cercheremo di fare un piccolo aggiornamento sul coronavirus e sul collegamento con l'ambiente. E come ormai sapete, non siamo in diretta, siamo comodamente registrando questa trasmissione da casa mia e da casa di Alberto, quindi le domande, in caso chiaramente se chiamate non potremo rispondere, potete farle via mail o in redazione, insomma. Prego Alberto, a te la parola. Bene, buongiorno a tutti. Io parto con i soliti dati sull'ambiente in generale, cioè sul clima, che cosa sta succedendo, quali sono i dati più aggiornati. E il discorso è quello fondamentale, cioè quello che si chiama il vortice polare, questa specie di ciambellone di venti che tradizionalmente vorticava sopra al circolo polare artico, che però qui c'è la fonte che dice è diventato più sinuoso. E in realtà questo ciambellone ogni tanto si buca e escono delle correnti molto fredde che vanno verso la Siberia o verso l'Europa e quindi verso l'Italia. E però questo significa che contemporaneamente questo, come dire, attenuazione del circuito polare fa sì che ci siano molte più giornate con il sole e soprattutto senza nubi. E questo significa che aumenta lo scioglimento, la velocità di scioglimento dei ghiacciai sia al Polo Nord che soprattutto in tutte le montagne, quindi le Alpi, eccetera. Quindi E allora, questa che assenza cosa? di nubi, questa diminuzione delle nubi è a livello globale, non soltanto a livello, non soltanto sui Sì, poli, stiamo questa assenza è parlando globale. assolutamente a livello globale, però poi siamo stati investiti varie volte direttamente. Queste giornate di freddo intenso che abbiamo dipendono da Certo. questo tipo di andamento. E soprattutto la cosa importante è che viene sottolineato ancora una volta che la superficie del ghiaccio nel Polo Nord in particolare, ma anche in Groenlandia, non è tutta bianca come ci fanno vedere le foto. In realtà la superficie è fuliginosa, cioè è piena di sostanze varie che la rendono meno capace di riflettere i raggi solari e quindi il caldo, diciamo, rimane intrappolato sulla superficie dei ghiacciai e causa lo scioglimento. Che cosa si trova in questa fuliggine superficiale? Polveri sottili. Quindi i vari PM10, PM2,5, eccetera, le ceneri di tutti gli incendi, vi ricordo gli incendi in Australia, gli incendi in California degli ultimi mesi, la sabbia del deserto, che viene invece sollevata dai venti, detriti locali e rocciosi, e perfino le polveri alzate da Chernobyl, quindi da un'esplosione, di impianto nucleare. Quindi sono una serie di sostanze che hanno tutte quante però questo effetto, che creano delle specie di pozzanghere, cioè dello scioglimento della superficie, quindi rimane dell'acqua in superficie, dove c'è vita, cioè ci sono virus, ci sono animaletti vari, eccetera, eccetera. E ci sono una cosa che ho scoperto solo oggi. E gli orsetti d'acqua si chiamano, cioè sono dei microrganismi, delle specie di animalini piccolissimi, che però non si riescono a uccidere, cioè hanno fatto una serie di esperimenti e questi anche dopo 30 anni riescono fuori da situazioni di freddo, di caldo e via dicendo. Quindi per farvi capire che c'è questa parte dei ghiacci. È una situazione complessa, non è l'abbandono, il vuoto o le aurore boreali alle quali siamo abituati. Secondo punto, la Groenlandia sta continuando a contribuire con il suo scioglimento dei suoi ghiacci, perché per circa il 30% dell'aumento del livello dei mari, che è definito un fattore in aumento e in accelerazione. Aumento significa che gradualmente aumenta, in accelerazione che in ogni spazio di tempo fatte le elevazioni c'è una accelerazione rispetto alla situazione precedente. Questo lo scioglimento, lo scioglimento degli ghiacci, questo, l'aumento e l'accelerazione riferito allo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello delle acque in Groenlandia, quindi se non ho... è lo scioglimento dei ghiacci, però questo fattore incide in misura crescente, okay, cioè in accelerazione sul livello dei mari. Sul livello dei mari, certo. E poi sta cominciando l'Antartide, e questo poi ne parleremo un po' più in dettaglio, però ne abbiamo parlato la volta scorsa, se qualcuno se lo ricorda, che ci sono un grande ghiacciaio, un pezzo di ghiacciaio che sta ancora circolando in superficie, cioè un iceberg grande come la Liguria, e poi ci stanno altri due iceberg più piccoli, ma che si sono staccati nel periodo più recente. Quindi in sostanza l'Antartide ha cominciato a contribuire in misura non irrilevante all'innalzamento dei livelli del mare. Inoltre ci sono, questa fonte sottolinea due aspetti importanti, che lo scioglimento dei ghiacci dell'Artico, come ormai sanno tutti, lasciano per parecchi mesi aperto un canale, il canale, diciamo, il passaggio a nord-ovest, se lo vogliamo chiamare così, e questo però significa anche che ci passano tante navi, e queste navi emettono, diciamo, riscaldamento, fanno emissioni di residui di carburante, e quindi c'è un fattore di aggravamento della situazione climatica. E l'altro effetto che hanno tutte queste navi, che secondo gli scienziati incidono sulle rotte dei migratorie di balene, beluga, eccetera, cioè tutti gli animali di quella zona. Allora, quella fonte dice che servirebbe un trattato come quello di 60 anni fa fatto per l'Antartide. Cioè l'Antartide è stata dichiarata in pratica 60 anni fa un territorio internazionale, però suddiviso a sezioni in cui i singoli stati possono mettere delle stazioni di ricerca, solo attività di ricerca. Però l'idea di fare un trattato per il nord se ne è tanto parlato tante volte, per un motivo, perché ci sono decine di basi, sia russe che americane, ma anche canadesi, di basi militari. Quindi in sostanza la spartizione in termini di occupazione delle terre rimaste scoperte è già avvenuta di fatto, cioè per, diciamo, gli stati rivieraschi. Quindi l'idea di fare un trattato, come dire, diventa molto, ma molto più difficile. Poi abbiamo avuto l'inverno più mite e asciutto di sempre, cioè più caldo e senza pioggia. Il mese di gennaio, questo gennaio 2020, era con meno piogge nella misura del 68%, cioè meno rispetto alla media, diciamo, alla normalità del passato. E a febbraio abbiamo avuto meno 80% di piogge. Quindi in pratica le piogge sono state solo un quinto di quello che si è verificato nel passato. Sempre a livello globale questo? Questo sempre a livello globale, però sempre... tendenzialmente stiamo parlando dell'emisfero nord. Sì, ok. Quindi no. Poi, quindi tra dicembre e febbraio, cioè se il trimestre, se diciamo tutto dicembre e tutto febbraio, e si è arrivati a piogge che sono poco più della metà del normale. Quindi in sostanza abbiamo avuto un inverno molto secco. E Questo significa, però questo non ci sono i dati, che se non ci sarà una primavera, cioè i prossimi giorni non ci saranno piogge, però se guardiamo fuori dalla finestra siamo completamente al sole, avremo una indagine, un'estate molto secca e molto calda. E quindi c'è una frase importante che la dico perché mi ha un po' colpito. La linea dei tropici passa ormai per Dover. Dover sono le coste dell'Inghilterra sul canale della Manica. E quindi l'idea dei tropici che si sono spostati verso nord è molto chiara. E le temperature massime sono state la più bassa alla stazione Concordia, qui in Antartide, meno 68,3 gradi centigradi. E il 17 marzo. E la città più calda, sempre il 17 marzo, è una città di Warburton, in Australia, che è arrivata a 42,6 gradi centigradi. Allora, quindi ho sentito che quest'inverno, proprio se non mi ricordo male, proprio quest'inverno, un paio di mesi fa, c'è stato il record di temperatura in Antartide, si parlava certo. Di 15-20 gradi, oltre 20 gradi addirittura. Esatto, quella era, come posso dire, la media per l'Antartide, quel più 20. Mentre questa qui è un punto preciso, cioè è una rilevazione fatta a questa stazione, che è un centro di ricerca italo-francese, e che ha avuto questo livello. Poi, barriera corallina. Ancora una volta viene rinnovato la denuncia del fatto che più della metà della barriera corallina in Australia, che sono 2.300 chilometri di costa, di fronte alla quale c'è la barriera corallina, più della metà è ormai sbiancata, cioè sono morte gli animaletti che stavano insieme agli animaletti del corallo. Quindi è cambiato il colore e sott'acqua, invece di avere un posto pieno di colore e pieno di vita, no? Cioè animato, è una specie di panorama grigio, tristissimo. Io l'ho visto personalmente alle isole Mauritius, è terribile perché cambia completamente l'immagine che abbiamo della barriera corallina. Poi abbiamo avuto ovviamente vari tornado e tempeste varie, cioè abbiamo avuto un tornado nel Tennessee con 22 morti, quindi negli Stati Uniti, e tempeste varie in Pakistan con 20 morti, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto valanghe in Alta Austria, quindi più vicino a noi, e delle più lontano invece grandi alluvioni a San Paolo, in Brasile. Quindi gli eventi estremi continuano a esserci, però le notizie di stampa, siccome non riguardano le coste americane o le coste di Cuba e dei Caraibi, sono meno frequenti, quindi questi sono dati così puntuali, non sono delle notizie sistematiche. Poi, sempre tenendo conto di questo innalzamento del livello del mare, però ci sono anche altre cause, cominciano a fare delle valutazioni sulla scomparsa delle spiagge. Quindi quello che per noi è la visione del mare normale, con la spiaggia che degrada verso l'acqua, eccetera. E noi abbiamo invece una previsione del 14-15% di sparizione delle spiagge entro il 2050, stiamo parlando sempre in generale nel pianeta, e il 36-50% entro il 2100. Quindi una tra le cause c'è sicuramente l'innalzamento dei mari, perché come abbiamo parlato varie volte, ci sono già delle isole, che sai, in Thailandia, ci sono già delle isole che sono andate sott'acqua, come in Oceania. E però l'innalzamento, questo è l'innalzamento dei mari in generale. Però è dovuto, questa sparizione delle spiagge invece è dovuta anche alle tempeste, cioè le tempeste che coinvolgono i mari e cominciano a sbattere sulle spiagge, quindi riducono le spiagge. E poi ci sono tutte le, quelle che diciamo, tutte le costruzioni o le dighe fatte dall'uomo, cioè tutto quello che noi facciamo a monte, cioè lungo i fiumi, contribuisce alla sparizione delle spiagge, perché in sostanza ognuna di queste regolamentazioni così frequenti in Italia in realtà riducono l'apporto dei sedimenti, cioè del terreno e altre sostanze che vengono trasportate dai fiumi verso il mare e che invece contrastano l'erosione. E questo è anche proprio un argomento che studiamo a geologia con la dinamica dei litorali, con gli eventi di tempesta che erodono, che trasportano via il materiale dalle spiagge le dighe, l'invogliamento dei fiumi. Esatto. Serve per l'energia, però poi non c'è più materiale che viene portato in spiaggia. Di conseguenza poi d'inverno quello che succede è il famoso ripascimento con delle navi che prendono la sabbia da 10-20 km di distanza dalla costa e la riportano indietro verso la spiaggia. Però quella sabbia non avrà chiaramente le caratteristiche dinamiche per poter rimanere su quella spiaggia, perché esatto, è in equilibrio. E Alberto, guarda, io ti fermo, partiamo con la prima pausa musicale e tra pochi minuti torniamo in voce. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Ed eccoci di nuovo in voce con Alberto Castagnola, Entropia Massima, e stavamo parlando della situazione delle spiagge, dei sedimenti, di ambiente, clima e tutto. Prego Alberto, continuiamo Sì, pure. quindi ci sono anche delle prime indicazioni su quali sono i paesi più colpiti da questo fenomeno di erosione, che sono l'Australia, che sarà colpita su 11.000 chilometri di spiagge, poi il Canada, il Cile, Messico, Cina, Stati Uniti, Russia e Argentina, che verranno, come dire, in misura maggiore colpite le loro spiagge. Poi c'è un altro tipo di informazione che però a me sembra particolarmente interessante, sempre per questo spostamento dei confini del caldo e del freddo, no? Di cui noi non abbiamo ancora la percezione. Io insisto un po' perché dovremmo renderci conto che questi confini si sono spostati. Allora, ho trovato dei dati. E che è un centro di ricerca che sembra facciano dei lavori estremamente interessanti, e ho preso solo alcune indicazioni. Questo centro si trova in Piemonte e affermano che trovano parassiti e funghi del terreno che fino a 10 anni fa erano solo in Sicilia. Quindi in 10 anni la linea possiamo chiamarlo la linea del caldo, no? Si è spostata verso nord. La linea dell'habitat di questi parassiti e funghi, insomma. Come, scusa? L'habitat di questi funghi e parassiti, la linea dell'habitat, la temperatura, le condizioni ideali, prima fino a 10 anni fa erano Sicilia e adesso siamo arrivati fino al Piemonte, quindi oltre 1.000 Esatto, in chilometri 10 anni. Ecco, in soli 10 anni. cioè, teniamo conto, quindi quella fascia che probabilmente è superiore a 600 chilometri del cambiamento climatico. Eh sì. No? Sì, hanno solo un Quindi migliaio. questa è la parte che noi non riusciamo a percepire, cioè noi continuiamo, cioè la popolazione italiana continua a ragionare come se stessimo a 10 o 15 anni fa, mentre invece il cambiamento si è verificato ed è misurabile. E per esempio, a Grugliasco, che è un comune vicino a Torino, la CO2 è già a 450 parti per milione. Io vi ricordo, non so se vi ricordate questo dato, però era un dato che era 280 parti per milione di CO2 nell'atmosfera moltissimi anni fa. Siamo arrivati a 400. E 5. Questo è l'ultimo dato, diciamo, medio e internazionale. Questo di Grugliasco dice siamo già a 450. Quindi il grado di inquinamento e di modifica della presenza in quella zona è molto, molto superiore a quello che è il livello, diciamo, medio della presenza di CO2 nell'atmosfera. Vi ricordo, scusatemi, io tendo a ricordare queste cose perché so che si dimenticano, che il livello di sicurezza della CO2 dovrebbe essere 300, massimo 350 parti per milione. Non so se, Diciamo, quindi noi siamo fuori e questa presenza sta aumentando. già ben fuori. E ancora un altro dato, sempre nella stessa città, questo ve lo dico ma sperando che qualcuno lo capisca, cioè in sostanza se si parla di semi di basilico, questi sono oggi colpiti diciamo, in Italia. Mentre questi semi di basilico si trovavano prima nel 1940 in Uganda e venivano importati, però nel 2002 erano già arrivati alla Svizzera, e quindi, mentre invece attualmente tutto questo discorso è già, almeno per questa pianta particolare, si è già verificato lo spostamento. Quindi è una malattia dei semi del basilico, che però basilico lo mangiamo tutti quanti, e c'era questa peronospora, che però che ha camminato, cioè si è spostata insieme al riscaldamento. Poi ci stanno alcune, sempre da questa fonte, che è molto scientifica, molto precisa, e fanno tutto un discorso sugli alberi nelle città, dicendo che la manutenzione degli alberi è assolutamente fondamentale, e che ogni volta che un albero, per motivi diversi, cade, cioè si sradica, dovrebbe essere immediatamente sostituito. Però questo, stiamo parlando di cose che in posti come Roma sono pura follia. Poi, sempre tornando alla CO2, c'è un'indicazione che l'Amazzonia, che è sempre stata considerata il polmone del mondo, no? Questa definizione, nel senso che produce molta, assorbe molta CO2, cioè sono tutti alberi che assorbono la CO2, però questa, secondo gli ultimi dati, essendo stati fatti investimenti, interventi, abbattimenti di alberi, eccetera, si comincia a prevedere che fra 15 anni produrrebbe più CO2 di quanto ne assorbe. Il tempo è 15 anni. Quindi Bolsonaro, con le sue misure, eccetera, sta solo accelerando questo fenomeno. E sempre ritornando alle, cioè sempre cercando di capire bene come funzionano i vari fenomeni e quali sono le connessioni, c'è una fonte che sottolinea che sia gli animali, cioè la presenza di animali, che il tipo di piante favoriscono o ostacolano gli incendi. Quindi non è soltanto i danni che noi causiamo, come dire, direttamente dando fuoco alle piante o ai boschi, ma anche, non so, moltiplicando il numero di certi animali o cambiando, modificando la flora, la composizione della flora, cioè delle piante, noi possiamo favorire gli incendi. E quindi, come dire, anche qua è un discorso molto complesso, non si può fare in 3 secondi, però importante è che questi fenomeni vengano connessi fra di loro. Un ultimo punto, le locuste, cioè nel periodo più recente, negli ultimissimi mesi, c'è stata una diffusione delle locuste, cioè sono state, in genere succedono tutti gli anni, ma quest'anno è stata, questa diffusione, questa invasione è stata particolarmente intensa e ha seguito il seguente percorso. È partita dallo Yemen, poi è passata in Etiopia, in Somalia, in Kenya, in Eritrea, poi in Sud Sudan, Uganda, Tanzania. E adesso sta investendo Bahrain, Kuwait, Qatar e Iran. Cioè si sta spostando, diciamo, nel Medio Oriente, uscendo dall'Africa. E che cosa, non so se riusciamo a capirlo bene, ma questi stormi di locuste camminano a 150 km al giorno, cioè sono molto veloci. Sono molto veloci perché appena hanno mangiato tutto il verde delle piante di una zona si spostano per andare verso altre piante, eccetera. E mangiano ogni giorno come 35.000 persone. Allora il calcolo, insomma, può essere, però ogni giorno, quello che si deve capire è che ogni volta che uno sciame di locuste si sposta, c'è il vuoto alle loro spalle, cioè non c'è più niente di alimentare che può essere utilizzato. E in misura a tappeto, diciamo, cioè quello che noi forse non riusciamo, noi in Italia non abbiamo mai visto, credo, ma il problema è che non riusciamo a immaginarci questo tipo di attività molto veloce, molto intensa. Sì, avevo visto che una, forse la peggiore degli ultimi 50 anni, avevo letto anche un articolo in cui si parlava che l'invasione di locuste di questo periodo rispetto agli anni precedenti è immaginabile, soprattutto in Africa, dove già hanno dei problemi di approvvigionamento di cibo, eccetera. È stata devastante veramente. Certo. Quindi è uno dei fenomeni che poi sono difficilissimi da bloccare, difficilissimi da distruggere, perché qualunque tipo di strumento usiamo è dannoso Sia per loro che per il per noi. terreno, eccetera, eccetera. Allora, adesso facciamo un altro intervallo e poi facciamo un ultimo passaggio. Cioè, vorrei parlare del coronavirus, però dal punto di vista dell'ambiente. Va bene, e allora ci sentiamo in voce di nuovo tra pochi minuti dopo una pausa musicale. Bene, eccoci di nuovo. Allora, ecco, Invece parliamo adesso del coronavirus dal punto di vista ambientale. Ci eravamo lasciati con questo spunto. Bene, allora intanto vorrei spiegare bene alcune cose. Cioè, su questo, siccome il discorso ovviamente è un po' complesso, però ho fatto un articolo che a sua volta era in realtà il riassunto di altri articoli che sono apparsi in Italia. Questo articolo, credo che, siccome è stato messo su Comune Info, ha ricevuto molte letture, cioè ha attratto molte persone. Allora, io ve lo mando e lo mettiamo anche sul sito della radio, okay, perché mi sembra che abbia evidentemente chiarito alcuni punti che erano stati un po' trascurati, anche se c'è una marea di articoli sul coronavirus, però alcuni passaggi evidentemente insomma, in quel testo sono spiegati meglio che in altri. Quindi adesso ne parliamo, però vorrei che qualcuno andasse a dargli un'occhiata se vuole approfondire questo aspetto. Allora, il primo passaggio è questo: l'apparizione di questi virus, perché, dunque no, aspetta, facciamo un passo indietro, di questi virus ce ne sono moltissimi. Alcuni sono emersi, tipo Ebola, tipo la SARS. Per l'Ebola, dopo alcuni anni, si è finalmente avuto un vaccino e quindi adesso può essere combattuta, anche se il vaccino ancora non è, come dire, perfetto. Però sono solo degli esempi, perché c'è un centro che è stato finanziato in origine dal sistema della cooperazione allo sviluppo statunitense, che ne ha identificati 900. Allora, il primo dato che vorrei che fosse un po' registrato è che stanno moltiplicandosi questi virus molto pericolosi. E questa l'esistenza di questi virus è un'esistenza che talvolta viene confusa e viene presentata come una presenza non dannosa nei nostri organismi, cioè ce ne abbiamo tanti nell'intestino, eccetera, eccetera. Però il problema è che certe volte invece diventano, diciamo, aggressivi, cominciano a diffondersi e soprattutto creano il passaggio nell'uomo. Sì, il passaggio quindi, tra gli animali e l'uomo. Allora, il discorso è che deve essere fatto molto accuratamente, per questo poi vi chiedo, suggerisco la lettura, nel senso che è un passaggio che deve essere capito. Un problema fondamentale però è che ormai stanno assumendo delle dimensioni, e questo la SARS già l'aveva dato questa indicazione, ma non abbiamo fatto niente. Però oggi e dopo il coronavirus dovremmo sapere che i nostri sistemi sanitari devono essere attrezzati per l'insorgere del prossimo virus. Questo è un discorso difficilissimo da fare in questo momento, però io vi prego di segnarvelo da qualche parte, perché questo è uno dei punti politicamente più importanti da sottolineare, da far emergere poi in termini di interventi governativi. Quindi la fine dell'emergenza cambierà tutto. Dovrebbe essere accompagnata dal mantenimento delle risorse che abbiamo mobilitato per fronteggiare l'emergenza stessa, perché fra un anno, fra 5 anni, potremmo ritrovarci nella stessa situazione con un virus diverso. Questo è il punto fondamentale. Secondo passaggio, questi virus diventano pericolosi nel momento in cui c'è il passaggio dagli animali all'uomo. Cioè, moltissimi di questi virus sopravvivono all'interno degli animali, e non sono pericolosi perché per quegli animali non sono dannosi. Se invece si verifica il salto di specie, cioè passano dagli animali all'uomo, possono diventare agenti patogeni, cioè velenosi, dannosi. È il passaggio quindi che il virus è lo stesso, ma quando viene passato all'uomo diventa un pericolo estremamente pericoloso, estremamente dannoso per l'uomo stesso. Quindi il fatto che prima fosse innocuo non significa nulla, perché stava dentro gli animali e insomma gli animali se la sbrigavano per conto loro. Quando viene passato all'uomo diventa invece, o può diventare, patogeno, cioè un veleno. Allora, questo è il passaggio, questo si chiama spillover, questo passaggio di specie. In questo caso c'è discussione sul dove questo è avvenuto, quindi se è avvenuto in Cina in certi mercati oppure in un altro paese, eccetera. Questo si può discutere a lungo, però la cosa importante è che noi abbiamo effettuato un'azione sull'ambiente che ha favorito questo passaggio di specie. Cioè, in sostanza, ogni volta che noi distruggiamo una foresta, i pipistrelli che vivono dentro agli alberi della foresta, dormono, eccetera, sono pieni di virus, ma per loro innocui, improvvisamente cominciano a spostarsi verso alberi e piante che sono coltivate dagli esseri umani. Ecco, quindi questo passaggino, secondo me, non è stato sottolineato abbastanza. Cioè, siamo noi esseri umani che, distruggendo le foreste con il ritmo di cui abbiamo parlato tante volte, abbiamo reso possibile, reso più facile, agevolato questo passaggio tra le specie, cioè dagli animali all'uomo. Allora, quello che dobbiamo riuscire a capire è che non solo questi virus esistevano, esistono, eccetera, ma ogni volta che noi distruggiamo un habitat tipico di certi animali, quindi non solo le foreste, ma anche zone umide, altre situazioni varie, noi creiamo la possibilità che ci sia questo passaggio di specie. Non succede sempre, per fortuna, però è reso possibile, cioè viene molto agevolato. Quindi anche gli interventi contro i danni ambientali devono essere visti come interventi che impediscono, rallentano, rendono molto più rara l'apparizione di virus pericolosi. Questo è il messaggio, che sto cercando di far passare. Io poi suggerisco, ovviamente, io lo faccio da un punto di vista economico, quindi invece sarebbe molto importante che ciascuno di noi, i compagni in particolare, abbiano delle letture, cioè sappiano leggere cosa dicono i virologi, cosa dicono gli esperti di animali, eccetera, eccetera, cioè capire bene fino in fondo questo tipo di pericolo di cui stiamo parlando. Quindi, in sostanza, la lotta all'ambiente o la lotta al virus ce l'abbiamo perché abbiamo danneggiato l'ambiente. Questo per schematizzare il discorso. Quindi, come sempre, siamo i principali responsabili. Come sempre, i principali responsabili alla fine siamo noi stessi. Siamo noi stessi, però è un meccanismo preciso. Certo. Cioè, non stiamo parlando di cose vaghe, stiamo parlando di cose precise. E questo discorso che è nato in Cina, eccetera, eccetera, appunto dipende dal fatto che anche in Cina ci sono state le deforestazioni e dall'altra parte ci stanno questi mercati di animali vivi che vengono, messi insieme ad animali di allevamento e a esseri umani. Certo. Allora, la discussione se sono stati i pipistrelli o gli altri altri animaletti, eccetera, è importante, ma non è essenziale. Il concetto fondamentale è il contatto. Cioè, noi abbiamo costretto certi animali a passare da una situazione selvaggia a una situazione vicina alla umanità, cioè all'habitat degli esseri umani. E questo è il punto fondamentale di cui dobbiamo essere coscienti. E poi c'è un altro aspetto che in questo articolo è sottolineato parecchio, è la diffusione di questi virus. E qui ne ho sentite di tutti i colori, anche adesso una trasmissione che ho sentito pochi minuti fa. E io attiro l'attenzione su un aspetto. Cioè, è chiaro che qualcuno si è fatto venire in mente, e ci sono vari articoli che lo denunciano, il fatto che la maggiore intensità di morti per contagiati e morti per questo virus sia nelle zone più inquinate, quindi Lodi e la parte in Milano e tutta la parte di Brescia. Le valli delle acciaierie fondamentalmente. Noi abbiamo parlato di Brescia qualche settimana, mese scorso, perché ci siamo i dati sull'inquinamento a Brescia. Brescia è anche la capitale, non se ne parla mai in questi termini. E oltre alla produzione di armi da caccia, è anche la capitale della trasformazione dei residui, cioè delle parte di tutta dei rifiuti che vengono trattati e trasformati in varie maniere. E ci sono, Brescia, mi hanno detto che intorno a Brescia ci sono delle colline molto piacevoli da vedere, che in realtà sono dei monti di spazzatura che si è accumulata nel tempo. Allora, non deve essere considerato un caso che c'è questo collegamento tra l'inquinamento che noi abbiamo prodotto e che però in Italia è concentrato in certe zone, che proprio quelle zone ci sia la, diciamo, concentrazione massima di danni effettuati dal virus. Però questo è un pezzo, cioè la parte più semplice della diffusione. Cioè è chiaro che delle persone che stanno in una zona dove c'è un inquinamento molto alto hanno i polmoni disastrati e sono più facilmente attaccabili. Però uno si deve chiedere perché tutte queste persone anziane hanno i polmoni in quella condizione. Non so se quindi dobbiamo stare molto attenti a capire bene perché, e non si deve fare in termini, ecco, quelli che sono le vittime dell'inquinamento, che a sua volta sono oggi anche vittime al quadrato del virus. Quindi avendo i polmoni già disastrati, sono colpiti maggiormente. Allora, questo. Quindi bisogna capire esattamente le cause e gli effetti, non so se è chiaro, non possiamo permetterci di sbagliare. L'altra diffusione, l'altro aspetto della diffusione è che molte volte questi virus vengono trasportati da quelli che noi chiamiamo il particolato, cioè PM10 e PM2,5. Quindi in sostanza sono le particelle, molecole, che circolano nelle città dove c'è il massimo di traffico automobilistico. Allora, questi virus si possono mettere sopra queste particelle, queste molecole, e andare in circolazione. Che spiega il motivo per cui poi siamo costretti a chiudere tutta la popolazione di una città, perché è l'aria inquinata di Roma che può favorire la diffusione del virus. Aria inquinata che ancora oggi non riusciamo a combattere in maniera efficace. Quindi, ancora una volta, anche questo è uno dei meccanismi di danno ambientale contro i quali è stato fatto, sono state fatte tutte le notte possibili e immaginabili, però il collegamento poi si preferisce, come dire, lasciarlo nel vago. E questo è un inquinamento preciso. Certo. Vorrei, questo anche qua, io mi azzardo a parlare di cose che devono essere trattate in termini molto più scientifici, posso commettere anche degli errori, quindi no, però non mi preoccupo di questo aspetto personale, dico, però viceversa sottolineo che tutti devono farsi un'opinione molto precisa, molto dettagliata di questo tipo di meccanismi. Ultimo passaggio che troverete documentato sempre nell'articolo che poi troverete sul sito, è noi abbiamo distrutto una parte notevole, molto consistente, lì ci sono tutti i dati. E c'è un dato che è uscito l'altro ieri e ancora non ho potuto verificare, si parla addirittura di distruzione di 70.000 posti letto. Allora, è vero che non tutti devono avere una struttura per le tutele, per i malati gravi, eccetera, eccetera, la terapia intensiva. Però il problema è che noi negli ultimi 10-20 anni, in realtà il meccanismo è iniziato con una legge del 98, quindi da più di 20 anni, e noi abbiamo, come dire, fortemente tarpato, cioè lo abbiamo ridotto al minimo, il sistema sanitario. Allora, questo è inutile stare, io non vorrei sottolineare che bisognerebbe rivedere tutta la storia del sistema sanitario, perché esistono già queste storie, però non sono lette abbastanza. Però, invece, rispetto all'impegno politico dei prossimi giorni, cioè immediato, noi dobbiamo far sì che queste assunzioni così fatte, 300 qua, 5.000 là, cioè così un po' generiche, devono essere trasformate in una ristrutturazione di fondo di tutto il sistema sanitario. E vorrei insistere su un aspetto, tutte queste cose che abbiamo creato, cioè utilizzando le aree delle fiere e cose queste, oppure gli ospedali da campo, devono diventare una struttura permanente, insisto, permanente, che deve essere tenuta aggiornata con impianti sempre moderni, eccetera, eccetera, e pronta per il prossimo attacco di virus. Questo è un obiettivo politico di estrema rilevanza che cercheranno di dimenticare fra 3 mesi. Noi abbiamo questi 3 mesi di tempo per insistere su questo aspetto. E deve essere, vorrei essere chiaro, questo lo devono decidere gli scienziati, i medici, gli ingegneri specializzati, cioè non lo deve fare un economista in termini generici di stanziamenti, perché deve essere modificata la struttura del sistema sanitario. Quindi deve essere realmente universale e soprattutto deve essere pronto ad affrontare delle minacce che questa volta ci hanno trovati totalmente impreparati, ma soprattutto ignari, cioè non ci avevamo mai pensato. E questo è un problema politico generale, cioè evidentemente non siamo in grado di capire che cosa succede a livello mondiale con il cambiamento climatico e con questi eventi apparentemente come dire, misteriosi e casuali, mentre invece sono strutturali e ben conosciuti. E molto legati tra loro. Io avrei finito. E allora, se noi abbiamo finito, quindi con questo chiudiamo questa trasmissione di Entropia Massima e ci sentiamo probabilmente sempre con questa modalità, quindi sempre con puntate registrate anche per ancora purtroppo qualche altra puntata, penso. E quindi buonasera a tutti e a tutte e a risentirci.